Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli, oggi partiamo dal negoziato sull'accordo TTIP che sarà, insieme alla Brexit, al centro del trilaterale tra il presidente Barack Obama, i presidenti della Commissione e del Consiglio europeo, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, in programma venerdì mattina, prima dell'inizio del delicato vertice della NATO a Varsavia. Tusk e Juncker indicano alti funzionari europei, diranno ad Obama che l'Europa ha intenzione di intensificare la trattativa, di cui è previsto un nuovo round negoziale la prossima settimana, ma che chiederanno agli Stati Uniti di fare passi che permettano di superare le preoccupazioni europee, in particolare sulla questione della reciprocità di partecipazione agli appalti pubblici, altrimenti sarà molto difficile chiudere il negoziato, così fonti europee. Questo naturalmente nell'agenda appunto degli ultimi giorni della settimana, ma oggi in primo piano c'è ancora la vicenda delle banche. Allora sentiamo un servizio su questo tema. Va avanti il negoziato tra Roma e Bruxelles su un possibile intervento pubblico a favore delle banche, in particolare di Monte Paschi, ormai in balia della volatilità. Un'apertura arriva oggi dal neocommissario ai servizi finanziari Dombrovskis, che ha parlato in audizione alla Commissione economica del Parlamento europeo. Monitoriamo la situazione italiana e siamo pronti a intervenire, assicura. Ci sono diversi modi per fronteggiare la situazione delle banche italiane, modi che dipendono dalla direzione che prenderanno le stesse autorità di quel paese. Quello di limitare l'uso del denaro dei contribuenti per sostenere le banche aveva del resto già detto ieri è un importante principio fondamentale. Tuttavia i legislatori europei hanno riconosciuto che un certo grado di flessibilità ci può essere in casi eccezionali ed è proprio su questa deroga che punta l'Italia appellandosi all'articolo 32 della direttiva sulla risoluzione e ristrutturazione delle banche. E anche dalla Germania ieri erano arrivate delle aperture su un compromesso per stabilizzare il sistema applicando in modo flessibile le regole sul bail-in. Così aveva detto il capogruppo del Partito Popolare Europeo all'Europarlamento, Manfred Weber, molto vicino alla Merkel. Occorre applicare in modo flessibile la normativa europea per affrontare la situazione specifica di alcuni Stati membri. Insomma, è nel solco del quadro normativo vigente che si sta lavorando. Il nodo è però sempre quello della portata del bail-in sugli investitori non istituzionali. Saranno gli stress test del 29 luglio dell'autorità bancaria europea a far chiarezza. Il rischio è però che quel lasso di tempo sia troppo lungo di fronte all'emergenza del sistema bancario. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. La Commissione europea vuole rafforzare la sua capacità di sostenere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nei paesi terzi, finanziando in circostanze eccezionali anche le forze armate dei paesi terzi, in particolare i cosiddetti paesi fragili, quelli africani come Mali, Somalia, Repubblica Centroafricana. Oggi, su iniziativa dell'alto rappresentante Federica Mogherini, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla presentazione di una proposta legislativa per modificare il quadro legale del regolamento del cosiddetto strumento per contribuire alla stabilità e alla pace ed aumentarne la dotazione di 100 milioni di euro, reindirizzando risorse per l'azione esterna dell'Unione Europea, risorse già presenti nel bilancio europeo ed escludendo invece di attingere ai fondi europei per la cooperazione e lo sviluppo. La proposta ora dovrà essere approvata in co-decisione da Consiglio e Parlamento europeo. E con questo è tutto, naturalmente diamo la linea allo sport, dunque tutti convocati, noi ci risentiamo domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.